America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Well, ladies and gentlemen, we made a decision to get into this race at our kitchen table against all the odds, and we made a decision over the weekend that while this presidential race for us is over, for me, and we will suspend our campaign effective today, we are not done fighting. Rick Santorum ha chiuso la sua corsa per la nomination repubblicana, l'ha chiusa durante un drammatico weekend pasquale, quando la famiglia ha raccontato nel breve incontro di ieri, un discorso di appena 12 minuti, ha raccontato, vi dicevo, come la famiglia si è riunita attorno al tavolo della cucina per discutere dei loro problemi. Il più grave, quello che riguarda la figlia Bella, una bambina di 3 anni, malata di una malformazione genetica fin dalla nascita, una bambina che i genitori hanno voluto, nonostante i medici avessero consigliato, suggerito l'aborto, perché si era capito già dall'analisi del feto che c'era un serio problema genetico. Ebbene, Bella, che ha avuto numerosi problemi di salute nel corso della sua brevissima vita, è stata ricoverata in ospedale di nuovo per un problema di salute. Ieri Santorum ha detto che oggi Bella sta meglio, è una bambina con una grande forza e una grande tenacia. Bella in qualche modo è diventato il simbolo, sotto molti punti di vista, di questa campagna di Santorum. Lo è diventato durante il dibattito politico. Santorum, un conservatore cattolico antiabortista, ha fatto di questa sua bambina una bandiera nella durissima guerra contro l'aborto che ha portato avanti da anni con la moglie, ma è diventata anche il simbolo di una riflessione interiore che la famiglia ha fatto durante il weekend pasquale, decidendo che forse era arrivato il momento di archiviare, di chiudere appunto la partita. I think what I tried to bring to the battle was what Abraham Lincoln brought to this battlefield back in 1863 in November 19th, when he talked about this country being conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Di nuovo un altro passaggio di questo discorso di Santorum, un candidato che esce da questa campagna testa alta, devo dire. Ho cercato, ha detto, di portare in questa campagna ciò che Abraham Lincoln portò sul campo di battaglia del 1863, parlando dei valori fondamentali di questo paese, come la libertà e la consapevolezza che tutti gli uomini sono uguali, e noi non potremo andare avanti come grande paese se non ci ricordiamo chi siamo e che cosa ci rende americani. Un discorso ispirato, conferma la sua forza politica, la sua visione per un'America conservatrice, la sua determinazione, la sua ispirazione. Ecco, devo dire che Santorum ha movimentato drammaticamente la campagna elettorale. Questa era una campagna elettorale che era partita in qualche modo annunciata. Si sapeva che Mitt Romney sarebbe stato il candidato disegnato. Aveva dietro di sé l'establishment, aveva creato una struttura organizzativa straordinaria, aveva raccolto una gran quantità di fondi. Gli altri contro di lui erano davvero nessuno. Ebbene, l'unico suo problema era quello di essersi già collocato al centro. Mitt Romney pensava al confronto con Barack Obama. È stato un suo errore, perché quello spazio politico della destra più estrema, che è in genere oggetto di contesa durante le primarie, quando la base del partito si mobilita, è stato un terreno che ha lasciato ad altri. Ha lasciato in prima battuta a Rick Santorum, ma anche a Newt Gingrich, anche a Ron Paul. Io credo che questa sua posizione alla fine gli tornerà di grande utilità nel confronto finale con Barack Obama, perché potrà dire molto apertamente di essere stato coerente con se stesso, con le sue posizioni più di centro, di non aver ceduto alla tentazione di spostarsi a destra quando c'era il rischio di perdere stati importanti come il Mississippi, come la Georgia, come l'Alabama, come la Louisiana, stati che comunque gli avrebbero consentito di accelerare la sua vittoria. Ebbene, Romney è stato coerente con se stesso. Questa coerenza alla fine, io credo che lo ripagherà. So I want to congratulate Senator Santorum, and we're going to stand united as a party to defeat Barack Obama. Mitt Romney si è congratulato con Rick Santorum per aver condotto una corsa straordinaria e ha detto: il partito a questo punto deve unirsi attorno a un unico candidato. Ecco, la giornata di ieri, drammatica naturalmente sul piano umano per le dichiarazioni di questo candidato che ha colpito talmente l'immaginazione degli americani, a partire dalla vittoria insperata, improbabile in Iowa e da quel discorso discorso che ha fatto nella notte, quando è arrivato vicinissimo secondo per poi scoprire di avere in realtà vinto, dicevo, quel discorso nella notte in Iowa, una notte freddissima in mezzo alla neve, un discorso in cui ha ricordato le sue origini di immigrato, suo nonno che arrivò dall'Italia, una famiglia di minatori, una famiglia che ha combattuto sempre contro le difficoltà della vita, ma che sempre, grazie a una forte adesione a valori morali altissimi, è riuscita a prevalere davanti a mille difficoltà. Here in America we have a sense of common purpose. Here in America we can meet any challenge. Here in America we can seize any moment. We can make this century another great American century. Ed ecco il terzo elemento, la terza gamba di questa drammatica giornata di ieri, l'intervento di Barack Obama in Florida, un discorso elettorale a tutto campo. Florida, uno degli stati chiave, Barack Obama ha affrontato un tema centrale, quello dell'equità fiscale, ha proposto la Buffett Rule, si dovrà votare sulla Buffett Rule la settimana prossima. Buffett, Warren Buffett, ricordiamolo, grande miliardario americano, che chiede una legge che applichi delle aliquote fiscali minime per i milionari, per i miliardari. Ecco, questo incrocio molto simbolico, l'abbandono emotivo di Santorum, l'appello all'unità di Romney, il discorso di Obama, hanno trovato una esplosione di cacofonia nelle televisioni americane. Rick Santorum has decided to suspend his presidential campaign. That means the Republican nominating contest is over, with Mitt Romney now certain to be the nominee. Santorum said he decided to suspend his campaign, but the math was against him. He would have had to win more than 3/4 of the remaining delegates to prevent Romney from getting the 1,144 delegates needed to secure the nomination. President Obama is holding a series of campaign fundraisers in South Florida today. The president also did some campaigning for the so-called Buffett Rule. Di fatto la corsa a questo punto è una corsa nazionale, ci saranno molte marce in più, abbiamo voltato una pagina storica importante. Barack Obama forse si trova in vantaggio su Mitt Romney, ma stiamo parlando di un vantaggio marginale. Nell'immaginario collettivo americano Barack Obama è amato da una buona parte della popolazione e resta sicuramente più bravo dal punto di vista oratorio, ma Romney è più abile nel dibattito. Sarà un confronto, devo dire, appassionante, un confronto importante. Non sappiamo quale sarà l'esito. Ripeto, oggi Barack Obama si trova in vantaggio, ma che succederà con l'economia? Abbiamo visto qualche momento di incertezza, con l'occupazione che è diminuita, troppe variabili aperte, troppi punti interrogativi. Dal punto di vista del conteggio dei grandi elettori sappiamo che ce ne sono 266 a favore di Obama, 262 in questo momento a favore, sempre sulla base delle proiezioni statistiche naturalmente, a favore di Romney. Ce ne vogliono 270 per vincere, la distanza è minima, la corsa sarà appassionante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica. Chi vive sì tempi difficili ma resta pur sempre alla nuova frontiera, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Austin, Texas, si costruirà una statua in onore di Willie Nelson, una statua di bronzo circa 2,5 metri. Ci sarà per l'inaugurazione un concerto del cantante, di Willie Nelson, visto che siamo in atmosfera elettorale, visto che queste elezioni. America 24.